Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. In principio fu un topo. Il mondo, o almeno quello che vogliamo esplorare oggi, inizia con un topo. Ma non si parla di sporcizia, di abbandono, di miseria. Non stiamo esplorando i bassi fondi. Non parliamo di pestilenze. Al contrario, quello di cui vi parliamo oggi è un mondo infantile. Così infantile da risultare piatto e bidimensionale. In questo mondo tutto ciò che è brutto rimane fuori. La realtà non interessa. Qui non c'è la sofferenza, il dolore, la pena. Dopo un colpo mortale ci si rialza in un baleno. Tutto può accadere, perché nulla è inconcepibile. L'assurdità diventa valore, l'incredibilità acquista senso e la vita diventa un'unica stupefacente risata. È così che in principio fu un topo. It was all started by a mouse. Congratulations, Mr. Mickey Mouse. Congratulations to you. In principio fu un topo e il suo nome è Mickey Mouse, o meglio Topolino per noi italiani. L'età d'oro dei cartoni animati in America inizia con l'invenzione del giovane regista Walt Disney, che con l'avvento del sonoro spalanca le porte all'arte del disegno e dell'animazione, che seppur evolvendosi nelle forme e nei contenuti, non ha mai smesso di crescere e stupire. Intere famiglie hanno trascorso come ipnotizzati lunghi pomeriggi, chiusi in un cinema immerso nel buio, mentre sul grande schermo conigli impertinenti, paperi in tenuta da marinaretto e picchi dal becco a mitraglia si rincorrono come impazziti. In un mondo in cui la fantasia è al potere, non può succedere nulla di tragico. E se succede, si abbatte tutto con una risata. Io penso che invece al giorno d'oggi essere un operatore nel mondo della fantasia, come lo può essere un fumettaro veramente, è ancora una cosa importante. La voce che avete sentito è quella del grande Ugo Pratt, l'inventore di Corto Maltese, che non si vergogna a definirsi un fumettaro, a lavorare nel mondo della fantasia. E ha ragione. È un mondo che gode di così alta considerazione presso grandi e piccoli, da meritarsi nei primi anni di diffusione dei cartoni animati che questi vengano trasmessi nei cinema, nei grandi theaters delle città di tutti gli Stati Uniti. Fin quando, alla fine degli anni 50, succede un fatto inaspettato. Nelle case degli americani, anzi, a poco in quelle di tutto il mondo, entra la televisione. E improvvisamente i brevi cortometraggi e i veri e propri film che sono andati in onda nei cinema fino al giorno prima si rivelano inutilmente costosi rispetto alla spesa che un'emittente televisiva può affrontare. Viene richiesto un nuovo modo di affrontare la produzione che preveda la semplificazione della tecnica e dei tempi di lavorazione. Al tempo stesso serve una creatività che riesca a far fronte a produzioni che possano svilupparsi in modo seriale, pronte ad andare in onda quasi tutti i giorni. Inoltre, la televisione, con tanti canali a disposizione, permette anche di parlare direttamente ai bambini. Fino ad ora, la produzione cinematografica si rivolge indifferentemente sia ai bambini che ai genitori che li accompagnano. Film come il classico Fantasia ha molti livelli di interpretazione e scene come quella di Una notte sul Monte Calvo possono anche risultare terrorizzanti per i più piccoli. Adesso invece i bambini ottengono canali e orari interamente dedicati a loro. La Walt Disney Production, che fino agli anni 50 è leader del mercato dell'animazione, cerca di adattarsi alla crescita del mezzo televisivo, tanto che il suo staff crea un personaggio pensato proprio per la TV, Pico de Paperis. Eppure l'interesse di Disney per la TV non è così intenso. È il cinema la dimensione nella quale la grande casa di produzione si trova più a suo agio. Dopo classici come Fantasia, Biancaneve e i Sette Nani, Dumbo, Cenerentola e Lilli e il Vagabondo, piccole produzioni come quelle utili alla TV sembrano poca cosa per il pachiderma disneyano. E questo lascia spazio ad altri animatori di occupare nuovi canali a disposizione, fino a diventare le vere star dell'animazione moderna, come scopriremo tra poco. Ma torniamo un attimo indietro nel tempo. Siamo in una bottega di parrucchiere dove si sta per ultimare su una cliente un taglio che fa furore. E Mio padre faceva il barbiere, aveva un piccolo negozio, ma poi diventò parrucchiere per signore e a quei tempi andava molto un'acconciatura detta alla Marcel, tutta a onde, e grazie a quell'acconciatura riuscì ad aprire ben 3 negozi e a trasformarsi in un piccolo tycoon della zona. Il figlio di Vincenzo Barbera ricorda ancora molto bene il taglio alla Marcel, che permise a suo padre di costruire a New York un piccolo mondo di benessere intorno alla sua famiglia. Gli anni duri della fame che costrinsero Vincenzo a lasciare Sciacca, in Sicilia, sembrano essere lontanissimi. A Brooklyn tutto risulta più brillante, facile, felice. Nonostante nel piccolo appartamento di Flatbush si parli ancora italiano, i piccoli Barbera sono ben inseriti nella comunità locale. Solo uno dà qualche preoccupazione a mamma Francesca quando scopre i risultati scolastici del figlio. Quel figlio si chiama Joseph Barbera. Joseph Barbera. Un giorno mia madre mi chiede: quanto fa 2 più 2? E io le rispondo: 3. E lei disse: oddio. E così lei capì che non avevo mai aperto un libro. Tutto quello che facevo era disegnare. Scoprire che il proprio figlio non è in grado di far di conto non è bello per una giovane mamma che ripone tutte le aspettative nei suoi bambini. L'America è terra di promesse. Ma che promesse possono avverarsi per un figlio che non studia? E soprattutto, se il piccolo Joseph non sa neanche fare 2 più 2, come trascorre tutte le sue giornate a scuola? A scuola scoprii che sapevo disegnare e così passavo il tempo a farlo sulla lavagna. Copiavo le immagini dai libri, Gesù che entra in Gerusalemme sul dorso di un asino. Lo rappresentai come se fosse stato un murales sulla lavagna di classe. Quando lo scoprì la suora, mi diedero da disegnare di tutto. La famiglia di Joseph è perplessa. Il talento di un figlio è sempre una bella scoperta, ma talvolta può apparire come un problema, più che come una risorsa pratica per il futuro. Vincenzo e Francesca Barbera preferirebbero molto di più che Joseph diventasse un buon contabile piuttosto che un disegnatore morto di fame. Gli Stati Uniti si stanno affacciando ai ruggenti anni 20, quando tutto sembra a portata di mano, e saper far di conto nelle menti ingenue dei due Barbera può preludere a una dimestichezza col denaro piena di buone prospettive. Mentre quale utilità ci può essere per un figlio disegnatore? Per questo il dono di Joseph viene ignorato. E quando il ragazzo raggiunge i 18 anni, viene mandato a lavorare in banca. Anche se il momento non è dei migliori. Era il periodo del grande crack in borsa del 29 e qualcuno mi trovò un lavoro in banca. E devo dire che l'odiavo. Odiavo i numeri, odiavo le calcolatrici. Ancora oggi non so usare neanche il computer. E a dimostrazione di quanto fossero acuti, mi promossero addirittura a uomo delle tasse. Dovevo riscuotere i crediti, che odiavo ancora di più. Joseph ha 18 anni e la vita gli sembra già un mortorio. Sa di non potersi lamentare. In un momento drammatico come quello della grande crisi economica, avere un lavoro sicuro come quello in banca è una fortuna rarissima. Ma come anni prima in classe, la sua attenzione è molto scarsa. Fra un conto e l'altro, fra una riscossione di tributi e l'altra, resta sempre tempo per un disegno, la gioia di una matita posata sulla carta, di uno schizzo fatto in fretta e furia. Stavo tutto il giorno seduto in banca e per disperazione ho iniziato a disegnare vignette umoristiche, quelle a una sola immagine, che poi inviavo riviste come Collier, Sunday Post, Judge e Redbook. Alla fine alcune di loro lo acquistarono, così io rimanevo tutte le sere a casa dalle 9 fino alle 2 e 3 del mattino a disegnare vignette. Loving one who loves you and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? È un periodo faticoso, ma almeno la noia del lavoro in banca viene scacciata dall'eccitazione dei primi disegni pubblicati su testate note a tutti. Per Joseph significa che qualcuno, oltre alla famiglia e alle suore, guarda e apprezza le vignette su cui lavora ogni notte. È un inizio. Una sera Joseph Barbera, come tutti i ragazzi della sua età, va al cinema. Danno La casa stregata, una delle ultime avventure di Topolino. Play. Yes, ma'am. Play. La scena in cui Topolino suona il pianoforte aiutato dalla morte, mentre gli scheletri ballano insieme, ha un effetto incredibile su Joseph. Wow, era una cosa fantastica. Andai a casa, disegnai Topolino e sullo stesso foglio scrissi la prima e ultima lettera da fan che abbia mai scritto. Poi aggiunsi il francobollo e la spedì agli studi di Walt Disney. Dopo un po' arrivò la risposta. Sarò presto a New York e la chiamerò. Una cosa del genere. Firmato Walt Disney. È incredibile. L'incontro purtroppo non avviene, ma Barbera lo prende come un segno per approfondire il suo talento. Si iscrive ai corsi serali del Pratt Institute a Brooklyn, dove impara non solo a perfezionare il disegno, ma anche a colorare e a dare l'inchiostro alle matite. E finalmente l'impegno dà i suoi frutti. Durante l'età d'oro dei cartoni animati in America non esiste solo Walt Disney. Chi dà filo da torcere al Topolino più amato del tempo è un'irriverente ragazza con i capelli tagliati alla garçon. I fratelli Max e Dave Fleischer hanno uno stile molto diverso da quello dell'azienda di Walt Disney. Meno politically correct e tradizionalisti, i Fleischer si divertono a inventare personaggi anticonformisti, come la provocante Betty Boop, che fa il verso alle procaci attrici del periodo come Mae West e Betty Grable, e che mostra il seno con scollature generose e indossa solo gonnelline spaventosamente corte. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. L'altro grande successo dei fratelli Fleischer è Un marinaio con la pipa. Popeye, braccio di ferro, il fortissimo mangiatore di spinaci. Un personaggio nato nel 1929 dalla penna del cartoonist E.C. Seeger. Quando Joseph riceve l'offerta di lavoro dei fratelli Fleischer, è come se la felicità si sia fermata a bussare alla porta dell'appartamento dei Barbera. Il lavoro nel reparto di colorazione è nuovo ed eccitante, e in breve Joe progredisce a tal punto da passare a una nuova casa di produzione, la Van Buren, dove viene messo al reparto animazione. Alla chiusura dell'azienda, Joe, nel 1937, allettato da un aumento di salario, si trasferisce a Los Angeles per lavorare nella divisione cartoni animati della Metro-Goldwyn-Mayer. Non è una decisione facile la sua. Joe si è sposato da appena 2 anni con il suo amore del liceo, Dorothy, e la separazione è dolorosa. Ma la Grande Depressione sembra meno spaventosa al sole della California. E anche se al suo arrivo nella Città degli Angeli, Barbera si rende subito conto che le cose non stanno così bene, decide di fermarsi, stringere i denti e provare ad emergere. Alla MGM però sono tempi duri. Dopo il fallimento della serie Captain and the Kids, a cui Barbera partecipa, Fred Kimby, il direttore del settore, lo mette in coppia, più per disperazione che per altro, con un giovane regista, William Hanna. William Hanna. Arrivò in stanza con me per lavorare agli storyboard, solo che non c'era nessun storyboard da fare. Così gli dissi: perché non proviamo a inventarci un nostro cartone? Il tempo a disposizione c'è, la voglia anche. Così Joseph Barbera e il giovane regista si mettono all'opera e in breve tempo partoriscono una classica idea di rivalità di coppia. Sapevamo di aver bisogno di 2 personaggi. Avevamo bisogno di un conflitto, di una caccia, di azione. E un gatto contro un topo sembrava una buona idea da cui partire. Nasce così Tom e Jerry. Dio li fa e poi li accoppia, si dice. In questo caso, l'intuizione di Fred Kimby ha veramente qualcosa di divino. La coppia creata da Barbera e il nuovo arrivato sembra funzionare come un meccanismo perfetto. E allo stesso modo funziona la coppia da loro creata, Tom e Jerry, destinata a durare nel tempo e a diventare uno dei grandi classici dei cartoni animati. Il primo filmato di Tom e Jerry, che allora ancora si chiamano Jasper e Jinx, si intitola Puss Gets the Boot. La primissima scena si apre sul piccolo topo che corre con tutte le sue forze, senza che riesca a spostarsi di un solo centimetro. Man mano che la camera da presa allarga, lo spettatore scopre che la coda di Jerry viene trattenuta da un serafico gattone grigio, Tom, che impedisce al topo di scappare. Il cartone ha un tale successo che viene persino nominato agli Oscar come miglior cortometraggio d'animazione. Non vince, ma è solo una questione di poco, prima che nel 1944 si aggiudichi la prima statuina con l'episodio intitolato The Yankee Doodle Mouse. È l'inizio di una lotta che durerà decenni, fino a ottenere nel 2000 il riconoscimento della rivista Time, che li ha nominati uno dei più grandi show televisivi di tutti i tempi. Da allora, la coppia Tom e Jerry conquista 7 Oscar come migliore cortometraggio d'animazione, premi ritirati sempre da Fred Kimby e mai dai suoi ideatori, Joseph Barbera e William Hanna. Destini incrociati. A Destini incrociati sono i primi anni 40 e negli studi della MGM a Los Angeles sono nate due nuove coppie destinate a diventare fra le grandi star dell'animazione. Tom e Jerry e i suoi creatori, Joseph Barbera e William Hanna. I due uomini sono stati messi a lavorare insieme in un piccolo ufficio della Metro Goldwyn-Mayer, che poi, man mano che i successi del gatto e del topo più famosi del mondo continuano negli anni, diventa sempre più vasto, fino a coinvolgere uno staff che in 20 anni produce ben 200 avventure, sempre sotto le attente direttive dei due autori principali. Nella coppia creativa, Joseph Barbera si occupa essenzialmente di ideare e disegnare le gag, mentre William Hanna, di formazione più eclettica e produttiva, si occupa della regia e di tutti gli altri aspetti più propriamente tecnici del cartone. Ma la partnership funziona, anche se i due arrivano da percorsi molto diversi. William Hanna nasce nel New Mexico, unico maschio fra 6 sorelle. Il padre lavora come soprintendente nelle costruzioni ferroviarie, un irlandese dal temperamento sanguigno, come il colore dei suoi capelli. William cresce seguendo i continui spostamenti della famiglia al seguito del lavoro del padre, fino al trasferimento definitivo in California, a 9 anni. 3 anni dopo, nel 1922, William scopre il suo primo grande amore. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. You're a fine-looking fella, and I know. La voce che avete appena sentito è quella di Lord Baden-Powell, il fondatore del movimento degli Scout, autore del manuale Scoutismo per ragazzi, nel quale, sfruttando le sue esperienze durante la guerra dei Boeri, si propone di insegnare ai ragazzi tecniche di esplorazione e osservazione della natura, dando l'avvio a uno dei più grandi movimenti di stampo pacifista ed educativo mai creato nel XX secolo. Per William Hanna lo scouting diventa la passione di tutta una vita. La condivisione con gli altri, l'amore per la natura, il divertimento per l'esplorazione caratterizzano l'intera sua esistenza. Le lunghe passeggiate, i falò serali, tutto questo forma il carattere di William fino a renderlo un uomo forte, preparato nei confronti delle avversità. Fedele agli amici di sempre e ha uno stile di vita semplice e sano, esattamente quello che esprimerà in ogni momento della sua vita. E le prime avversità si fanno subito sentire, quando William è costretto a causa della Grande Depressione a lasciare il college per trovarsi un lavoro. Per un breve periodo si occupa di costruzioni, partecipando alla fabbricazione del teatro Pentagis di Hollywood. Ma la crisi non perdona, e in breve William Hanna si ritrova a lavorare in un autolavaggio. Non ha molta scelta perché nel frattempo si è sposato con la giovane Violet, che in breve gli dà 2 figli. Ma per fortuna il fidanzato di una delle sue tante sorelle lo sprona a fare un colloquio alla Pacific Arts and Title, una società che crea titoli per i film. Il talento per il disegno di William è tale che in breve viene trasferito al reparto di animazione sotto la cura di Hugh Harman e Rudolf Ising. Quando il duo lascia la Pacific, William è il primo che portano con loro quando iniziano a produrre indipendentemente cartoni animati per la Metro-Goldwyn-Mayer. La nuova avventura trova Hanna per la prima volta dietro una cinepresa. È il 1936 e il risultato è un cartone intitolato To Spring. Jeepers, creepers, jumping jee, time for spring, time for spring, go down sleepy head you be, time for spring. spring, I say. No more time to lay in snooze. Time for spring, time for spring. Not one speck of time to lose. Time for spring, I say. Ma basta un anno e il copione della vita di Anna si ripete. Quando la MGM decide di chiudere la collaborazione con Harman e Ising, la major cinematografica non si fa certo scappare un talento come quello di William, che viene assunto come interno nel reparto di animazione. Per William Hanna si spalancano finalmente le porte di una major. Il suo primo lavoro importante è curare la regia della serie Captain and the Kids. Tutto sembra quindi andare per il meglio, fino a quando la serie viene cancellata. Ed è a questo punto che ritroviamo William nella famosa stanza con Joseph Barbera. Con la creazione di Tom and Jerry, per 20 anni Barbera e Hanna si occupano solo di un gatto e di un topo. Sembra un tempo infinito. In realtà molte cose cambiano in quel periodo. Non solo la loro capacità di creare gag sempre nuove all'interno di un binario apparentemente così stretto e definito come quello della rivalità fra un gatto e un topo, ma soprattutto si evolvono le loro capacità tecniche, arrivando a permettergli persino di mischiare l'animazione a film reali, come quando Tom and Jerry incontrano l'attore Gene Kelly nel film Due marinai e una ragazza, e Jerry balla persino con il famoso ballerino. You may even learn to like it if you give it a try. You could laugh and sing and dance as gaily as an elf, but don't expect to get much help if you don't help yourself. Ma forse l'influenza maggiore è quella che Joseph Barbera e William Hanna ricevono dall'incontro con Tex Avery. Frederick Tex Avery arriva alla MGM nel 1942, dopo aver fondato alla Warner Bros. I gloriosi Looney Tunes e i Merry Melodies, con personaggi come Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig. La caratteristica principale di Avery è quella di rinunciare a ogni sentimentalismo tipico della produzione Disney per creare personaggi cinici, cattivelli o dichiaratamente pazzi come Daffy Duck. Al suo arrivo in MGM crea il personaggio di Droopy, un cane sempre gentile e imperturbabile. You know what? I'm happy. Droopy, in un certo senso, assomiglia a Avery, almeno per come lo ricorda Joseph Barbera. Tex Avery, ti dirò. Era un uomo tutto d'un pezzo, faceva i cartoni come piacevano a lui. Se qualcuno gli diceva qualcosa, lo ignorava. Era un uomo molto dolce, di buon carattere e di grande talento. Ma nonostante il successo dei grandi nomi della scuderia MGM, Avery e i due creatori di Tom and Jerry, nel 1957 la sezione animazione della grande major decide di chiudere i battenti. Stavamo appena celebrando la promozione a producer quando il telefono suona e dicono: gli studios chiudono. Incredibile. Gli studios stavano andando bene, erano l'unica cosa che stava facendo soldi e loro decidono di chiudere. I due padri di Tom and Jerry si rendono conto che è il momento di dare una svolta alla loro vita. Anni trascorsi a disegnare sempre le stesse gag per gli stessi due personaggi, nonostante i riconoscimenti d'eccezione, non sono serviti ad assicurarsi la pensione per la vecchiaia. Ai vertici del tuo successo e a più di 40 anni ti ritrovi in mezzo alla strada. Inimmaginabile. Il tuo cervello non riesce ad abituarsi all'idea. Ricordo che guardavo mio figlio giocare a baseball in una partita. Guardavo mia figlia ridere mentre correva in giro e pensavo: sì, ridete, ridete, che fra 2 settimane staremo tutti facendo la fame. Ma ero veramente sotto shock. È quindi il momento di imprimere una diversa direzione alla propria vita, di sfruttare, se necessario, un evento imprevisto come quello della chiusura degli studi di animazione della MGM per riprendere in mano il proprio destino e dare seguito a quell'incontro fortuito avvenuto proprio alla MGM tra di loro, che già tanta gloria gli ha riservato. Joseph Barbera e William Hanna, alla soglia dei 50 anni, decidono quindi di fondare una casa di produzione di cartoni animati, la loro casa di produzione, che chiameranno con il loro nome. Ma con quale cognome iniziare? La decisione è affidata a una moneta. E il destino decide. Decide a favore di William Hanna. La nuova casa di produzione si chiamerà Hanna e Barbera. Ben presto la maggior parte dei professionisti fuoriusciti dalla MGM inizia a lavorare per la Hanna e Barbera, che da subito ha le idee chiare e sceglie una strada che si rivela ben presto quella giusta, la televisione. La TV era una brutta parola. In MGM non potevamo neanche pronunciarla. Dopo anni di produzioni destinate al grande schermo, l'imporsi del mezzo televisivo richiede alle case di produzione aggiustamenti importanti, strategie intelligenti che rispondano alle nuove esigenze. Questo si traduce, per quanto riguarda la produzione di cartoni, in animazioni disegnate con meno riguardi verso i dettagli, con sfondi meno complessi e soprattutto utilizzando circa 300 disegni al minuto, invece dei normali 1000 delle animazioni cinematografiche. Questo può dare l'impressione di una minore qualità impiegata per i cartoni televisivi, ma è un errore. Nulla cambia per quel che riguarda la creatività nell'escogitare gag sempre diverse e nell'approfondimento della psicologia del personaggio. I primi progetti presentati da Hanna e Barbera sono Rough and Ready, un'altra storia di conflitto, questa volta fra un cane e un gatto. A questi segue Lupo de Lupis, il lupo tanto buonino, fino ad arrivare al primo grandissimo successo. Il Bracco Baldo Show diventa un classico, non solo per i bambini, ma anche per i grandi. È il primo cartone seriale che contiene anche altri personaggi, come il mitico orso Yogi e il suo amico Bubu e Pixie e Dixie. Una specie di contenitore di tutti i desideri possibili per un sano, intelligente, avido bambino americano degli anni 60. Destini incrociati. A Los Angeles, in Cowhenge Boulevard, Joseph Barbera e William Hanna hanno fondato da poco la Hanna e Barbera Production, destinata a diventare la principale casa di animazione televisiva degli Stati Uniti. La televisione spinge i due autori e produttori a puntare tutto sulla risata. Dopo anni in cui il segno, la grafica curatissimi delle grandi produzioni cinematografiche stavano prendendo il sopravvento sopra i contenuti. Con le produzioni tirate l'osso della televisione, Hanna e Barbera sono costretti a eliminare qualsiasi aggiunta, finezza, decorazione, per puntare sui personaggi bidimensionali senza dimenticare la capacità di far ridere gli spettatori con trovate sempre originali. Dopo i primi successi raggiunti con Bracco Baldo Show, Orso Yogi e Pixie e Dixie, la casa di produzione sforna una nuova pietra miliare della storia dei cartoni animati, i Flintstones. Il primo show animato ad andare in onda in prima serata. Un risultato incredibile. Fino ad allora nessuno aveva neanche solo osato pensare a uno show come i Flintstones. E con questo intendo uno show in prima serata della durata di mezz'ora. Stai scherzando? L'idea geniale dietro i Flintstones è quella di aver creato un mondo e delle famiglie dell'età della pietra che utilizzano in tutto e per tutto gli stessi oggetti, elettrodomestici, le stesse auto della perfetta famiglia americana degli anni 60, che ha come effetto quello di far affezionare milioni di americani a queste specie di simpatici progenitori cavernicoli. Spesso sono gli animali che suppliscono a certi strumenti come la lavatrice, fatta da un pellicano che contiene nel suo becco l'acqua saponata, o il rasoio elettrico composta da una conchiglia con un'ape dentro per mimare il rumore. L'altra idea grandiosa alla base dei Flintstones è che le storie si sviluppano seguendo i ritmi della tipica sitcom americana, con gag che si risolvono alla fine di ogni episodio, con tanto di risata finale del pubblico. E a differenza delle solite dinamiche di conflitto presenti in Tom e Jerry, come in Dixie e Pixie o Rough and Ready, il fulcro del cartone è l'amicizia fra Freddy Flintstone e Barney Rubble, e delle loro due mogli Vilma e Betty. Una grande amicizia era già stata sceneggiata con i personaggi di Yogi e Bubu, ma questa è la prima volta in cui sono due veri esseri umani, per quanto cavernicoli, ad essere amici. Forse è un'amicizia che riflette il sentimento di stima e rispetto reciproco che William Hanna e Joseph Barbera hanno l'uno per l'altro, cementati da un immenso lavoro fatto insieme e dall'ideazione di quasi 2000 personaggi animati. Ci capivamo perfettamente e ognuno di noi aveva un profondo rispetto per il lavoro dell'altro. In quasi 60 anni di lavoro insieme non abbiamo mai avuto uno scontro. Dopo l'età della pietra è il turno del futuro con i Jetsons, storia di una famiglia spaziale. E poi arrivano Magilla Gorilla, il gatto svicolone, Penelope Pitstop e tanti altri. Negli anni 60 le produzioni Hanna e Barbera riempiono interi palinsesti, raggiungendo nel corso di un decennio più di 300 milioni di telespettatori e per quasi 30 anni producono la maggior parte dei cartoni mandati in onda dalle tre maggiori reti americane. Cartoni per prime serate, per i pomeriggi di tutta la settimana e anche per lo speciale del sabato mattina. Una quantità immensa di lavoro prodotto a basso costo per venire incontro alle esigenze del nuovo mezzo televisivo. Ci chiedevano, perché non fate più film come Tom e Jerry? Semplice, perché non ci sono i soldi per fare un cartone di 5 minuti che deve costarti $2,700. Significa che devi mettere tutto quello che hai imparato in questo mestiere per inventare uno zoom per esprimere emozione, una cinepresa che si muova per simulare un'esplosione. Ogni mezzo è buono per mostrare un movimento che, utilizzando qualche disegno in meno, porta denaro in più. Questa filosofia così pragmatica ottiene anche i suoi risultati negativi. Per molto tempo la polemica maggiore è quella di criticare la mancanza di qualità delle animazioni di Hanna e Barbera, a tal punto che un collaboratore della Walt Disney Production avrà parole pesanti nei loro confronti. Non li consideriamo nemmeno concorrenza. E invece Hanna e Barbera diventano la casa di animazione più importante, tanto che negli anni 60 assumono quasi tutti i collaboratori licenziati dalla Walt Disney Production. Il decennio si conclude con un altro grandissimo successo, Scooby-Doo, il grande alano detective che conquista il cuore non solo di bambini, ma anche quello di ragazzini più grandi. Sempre di comune accordo, nel 1966, Hanna e Barbera decidono di vendere la loro creatura. Il loro destino si è compiuto, iniziato in una stanza del reparto animazione della MGM per finire alla costruzione di un impero. L'acquirente è la Taft Communication e il costo dell'operazione è di $12 milioni. Loro due resteranno però fermamente al comando dell'azienda. Quando nel 1991 questa viene di nuovo venduta alla Turner Broadcasting System e viene valutata $320 milioni. Nel corso degli anni Hanna e Barbera hanno vinto 8 Emmy Award, il più importante premio televisivo americano. Anche se il premio più importante è quello che milioni di persone di tutte le generazioni hanno tributato ai due animatori nel corso degli anni. Le infanzie di tutti quelli nati negli anni 60 fino ad oggi sono state attraversate dai personaggi e dalle gag di Hanna e Barbera come nessun altro è mai riuscito a fare. Anche se l'ultima invenzione di successo risale agli anni 80, i meravigliosi puffi dall'intenso colore blu, i cartoni ideati da Joseph Barbera e William Hanna sono ancora oggi quotidianamente trasmessi da migliaia di reti televisive in tutto il mondo. Come compenso a tutto questo lavoro, sia Hanna che Barbera hanno potuto godere di lunghe vite tranquille. William Hanna si è spento nel 2001, a 91 anni. Mentre Joseph Barbera è arrivato fino a 96 anni, spirando serenamente fra le braccia dell'amata seconda moglie, Sheila. Quando la fantasia è al potere, nulla può succedere di così tragico. The ghost too-